ritornano di sera con la voce del fiume che passa, con il canto di una capinera che sembra posarsi sull'acqua. Il mio primo maestro dell'amore mi portò lontano dalla gente, mi distese sull'erba dell'estate, ma provai ben poco, quasi niente. Adesso so che l'amore, fatto di sola poesia, esiste solo nei libri e nella fantasia, e nella fantasia. Secondo maestro dell'amore, per un anno qualcosa mi insegnò, ma siccome ero timida e impacciata, dopo un anno d'amore mi lasciò. Il mio terzo maestro dell'amore follemente di me si innamorò, una donna ero ormai diventata e per questo al suo carro mi legò.